Il gastronauta di Davide Paolini. Buon San Valentino a tutte le coppie di innamorati, ma buona giornata anche ai single, perché è giusto che così questo augurio vada un po' a tutti, magari che trovino questa sera l'innamorato o la innamorata. Bene, oggi parleremo di cucina d'amore, parleremo di ricette particolari, ma parleremo anche e soprattutto di ostriche. Parleremo di ostriche perché le ostriche sono, diciamo, uno dei cibi che vengono considerati afrodisiaci. Vorrei sottolineare quel vengono, perché sicuramente qui poi faremo molte discussioni in proposito. E allora di cosa parleremo? Parleremo anche di cene galeotte, e per questo io invito a intervenire i nostri radioascoltatori a raccontarci la loro cena galeotta. Numero verde 800 24 00 24 oppure sms 349 238 6666. Io ho già moltissime cene galeotte sul sito www.gastronauta.it e addirittura sono molto, non è che sono sorpreso, anzi credo che confermi un po' una regola, che non è detto che i cibi afrodisiaci siano quelli galeotti, perché mi scrivono di gnocco fritto, mi scrivono di sedanini con taleggio e salamino, mi scrivono di pasta e fagioli, quindi sicuramente, come vedete, bene, quello che conta magari è anche qualche cos'altro, ma lo andremo a scoprire lentamente. Tra l'altro siamo in un periodo di crisi, eppure stamattina ho un comunicato ho ricevuto un comunicato da una ricerca realizzata da Cenispes, che è il Centro Italiano di Studi Politici, Economici e Sociali, che dà dei dati abbastanza sconcertanti, nel senso che gli italiani per San Valentino fanno regali di lusso e si parla di 1200 euro a testa per fare colpo su una donna, ma non si parla però di viceversa, delle donne che fanno colpo sull'uomo. Addirittura sapete quali sono i regali più ricorrenti? Fiori, cioccolatini, dolciumi, ma perfino biancheria intima. Bene, allora andiamo subito a discutere di questo argomento e cominciamo da uno chef che proprio in questi giorni ha pubblicato un libro che si chiama Le ricette dell'amore. Si tratta di Lino Turrini. Lino Turrini è uno chef, il suo ristorante si chiama Corte Brandelli ad Osolo in provincia di Mantova. So che ha lavorato lungamente su questo libro, e allora cominciamo da lui. Turrini, lei questa sera ha preparato dei cibi particolari per queste cene d'amore di San Valentino? Sì, buona giornata anche a lei e a tutti gli ascoltatori. Sì, io ho fatto un menù proprio dedicato alla serata, diciamo. Ecco. Se vuole posso anche dire qualcosa. Ma prima di tutto le chiedo questo. Ma sì. Lei mentre scriveva questo libro, provava queste ricette, le ha trovate afrodisiache? Ma mentre scrivevo no, però il mio rapporto col cibo è privilegiato, insomma. Sono stato condizionato dalla mia professione, perché è fatta di amore, di gioia, ecco perché sono le ricette dell'amore, non solo legate al sesso o ad altre cose, ma legate anche al mio rapporto particolare con le mie passioni, insomma, che sono quelle del cibo comunque in generale. Ecco, ci dica un piatto di questa sera, non tutto il menù, ma un piatto. No, un piatto, una ricettina molto semplice, però penso che sia stimolante. È un'insalatina di sedano. Ah. Il sedano sappiamo tutti che eccita l'appetito, ridesta attività nello stomaco, se ben condito poi diventa per gli organi indeboliti un valido stimolante, ecco. E anche qui, insomma, parliamo sempre di alimenti che possono stimolare comunque. Ecco, in questo caso l'insalatina di sedano è così composta. Allora, sedano crudo, lo peliamo un po', lo tagliamo a cubetti e poi lo mescoliamo con dello yogurt, del succo di mandarino e poi delle nocciole tostate e tagliate a pezzetti. Questo viene poi condito con olio extravergine d'oliva, un po' di senape, sale e pepe. Questa è la ricetta. Poi su questo, io questa sera lo servirò in questo modo, ma poi magari gli ascoltatori darò qualche consiglio magari per aggiungere altre cose. Allora, io servo questa insalatina come antipasto, la servo come antipasto perché appunto è un antipasto leggero, e poi ci metterò sopra un cucchiaino di caviale. Ah, ecco, quindi tocco. Una fogliolina di menta, ecco, questo è l'antipasto. Poi magari posso consigliare a chi non ha queste possibilità, magari anche il salmone affumicato si presta per queste, o altrimenti la bottarga. Bene, rimanga con noi, sentiamo già Paolo da Novara. Buongiorno Paolo. Buongiorno, niente, io volevo raccontarvi un po' la cena che ci ricordiamo della mia ragazza, era i primi giorni che eravamo insieme, avevamo tipo io 20 anni, lei 18, io facevo il cuoco. Ah. Sì, immensa, per carità, niente di così elaborato, però è rimasta una cosa che ricordiamo con piacere, perché lei insomma aveva una famiglia in cui non è che si desse molta attenzione al cibo, e il fatto che io la incitassi a mangiare l'ha liberata da tutte le paure che poteva avere, ma insomma mi devo limitare, cosa dirà, cosa non dirà che mangio tanto. E niente, praticamente le ho preparato dei bucatini con del prosciutto crudo da dadini, pomodoro fresco e cacio ricotta grattugiato sopra, e di secondo una tagliata di manzo di roast beef con gorgonzola e rucola scottata poi al forno, e poi di dolce avevo preparato dei pasticcini di pasta frolla serviti su un piatto e diciamo decorati con del miele, insomma era una cosa un po' bene, un po' particolare rispetto alle Paolo sue, Paolo parametri. Ma com'è finita? È finita bene quella serata? Beh, diciamo che ci sposiamo tra qualche mese, quindi bene. Devo dire che è stata l'inizio di un idillio culinario bene. Durato poi anni. Grazie a Paolo da Novara, ricordo numero verde 800 24 00 24. Bene, abbiamo con noi Luigi Moretti, titolare dell'antica trattoria di Sacerno, in provincia di Bologna, un grande esperto di ostriche. La prima domanda che gli faccio velocemente, poi diciamo dovremo passare la linea alla viabilità. Moretti, è periodo giusto per le ostriche questo? Sì, buongiorno, buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Certo, periodo giustissimo per le ostriche. Sono buonissime e consiglio a tutti i valentini di mangiarne tante oggi. Ecco, Luigi il problema. Aspetta Luigi, rimane con noi. Ti interrompo, scusami. Devo passare la linea alla viabilità. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di cucina d'amore e anche di ostriche. Ricordo numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Riprendiamo così con il nostro amico Luigi Moretti dell'antica trattoria di Sacerno. Moretti, volevo sapere in questo momento, ecco, le ostriche, qual è la tipologia, la specie migliore per poter mangiare le ostriche? Adesso sicuramente abbiamo sì, le Belon, le ostriche piatte e le fin de Claire, praticamente le Oleron, quelle, le Tyron e le piccoline. Io consiglio in questo periodo le Papillon di Ries sur Belon. In questo momento sono straordinarie, buonissime, e consiglio oggi di mangiarne anche tante, di fare delle scorpacciate di ostriche, perché tu sai benissimo che c'è questa malattia che ha invaso un po' tutti gli allevamenti delle ostriche francesi, per i prossimi nel 2010 pensano di avere quasi la produzione ridotta quasi del 90%, quindi diamoci da fare e mangiamone tante. Ecco, Moretti, ti voglio chiedere questo, mi arriva un sms, il discorso dei mesi in R può essere ancora valido? Il discorso dei mesi in R non è più valido, perché i francesi, come sono molto furbi, portano le ostriche nei mesi caldi dentro a delle clair dove l'acqua è refrigerata. Più la fanno venire più fredda, quindi il problema viene risolto in questo modo qua. Ho capito. Io considero sempre comunque l'inverno la cosa naturale è sempre la migliore, diciamo da settembre fino a aprile, poi non dimentichiamoci che gennaio è italiano, gennaio, ma è francese. Certo, è certo. Con la R finale, quindi quello sta dentro al discorso. Bene, sentiamo Marcello della provincia di Palermo, buongiorno Marcello. Buongiorno a te, ciao, grazie, buongiorno a tutti. Prego. Riguardo il cibo afrodisiaco, a parte le ostriche, no? Sì. Riconosciute per eccellenza come cibo afrodisiaco. Io come titolare di ristorante, noi abbiamo un'espressione di cibo afrodisiaco che possa essere una sabbiata, denominata così perché comunque mettiamo la mollica tostata su. Il nostro afrodisiaco cos'è? Il gamberone, credo che sia un'espressione di cibo afrodisiaco. Il gamberone rosso che abbiamo in Sicilia credo che sia indiscutibile, è una cosa bellissima. Poi tra l'altro, mettendo anche una testa d'aglio fresco, non so se qualcuno ha sentito la volta scorsa sulla BBC, hanno proposto l'aglio come cibo afrodisiaco per eccellenza. Bene. Infatti addirittura in giornata il 32% delle vendite è stato d'aglio. Ma credo che siano contenti tutti coloro che non sopportano l'aglio. Io sono contento che venga fuori questa cosa, perché sono pro aglio al 100%, ma abbiamo fatto una trasmissione pro e contro aglio, caro Marcello, a suo tempo. Bene, grazie Marcello dalla provincia di Palermo con questa sua suggestione. Sentiamo Rosario da Napoli. Buongiorno Rosario. Buongiorno a voi. Allora, la mia proposta, anche perché io poi lavoro nel comparto agroalimentare, quindi sono anche di una certa affidabilità, è questa. Allora, penne trafilate in pondo di Gragnano, pomodori del Pieno del Vesuvio, scaglie di formaggio del Provolone del Monaco DOP, olio extravergine di oliva. Si inizia a mettere in padella tutto, pomodorini, olio extravergine e le prime scaglie di Provolone del Monaco. Dopo fatta fare la prima cottura alle penne, si butta tutto nella padella e si fa tutto saltare ed è un menù altissima qualità, oltre ad essere un menù per i fidanzati oggi del 14 febbraio. Senta Rosario, ma lei l'ha collaudata questa ricetta? È collaudatissima. Bene, grazie a Rosario da Napoli per le sue suggestioni. Io ringrazio Lino Turrini e Luigi Moretti, grazie della vostra partecipazione. Continuiamo, abbiamo altri, diciamo, altri interlocutori, quindi continuiamo con Piero Meldini. Piero Meldini è un noto scrittore riminese, e scrittore sia di romanzi ma anche di cose gastronomiche, e lui tantissimi anni fa fece la prefazione a un libro straordinario che io amo molto, che è La cucina d'amore di Omero Rompini. Omero Rompini, appunto, c'è una sua introduzione molto, molto divertente, e chiedo a Piero Meldini. Piero, ma c'è continuità, diciamo, dal punto di vista letterario di questa cucina dell'amore? Ma non è che abbia avuto grandi continuatori, certamente faceva parte di una tradizione precedente. Ecco, per quanto riguarda poi una tradizione successiva, io conosco soltanto il Venus in the Kitchen, Venere in cucina, pubblicata da Norman Douglas. Era un ricettario, fu pubblicato nel 1951, ma era un ricettario che lui aveva fatto per proprio uso, perché si tratta, Norman Douglas è il noto scrittore dandy inglese che vive però tanti anni in Italia. Poi ci sono più recentemente appunto le ricette immorali di Manuel Vasquez Montalban, certo, e infine Afrodita dell'Allende. Ecco, non conosco altri che abbiano scritto su questo tema. Bene, rimani con noi Piero, sentiamo Antonio dalla provincia di Bari. Pronto? Sì, buongiorno Antonio, mi dica. Buongiorno, buongiorno. Ascolta, in riferimento a quello che diceva prima un altro radioascoltatore su quanto riguarda la moria delle ostriche in Francia, volevo segnalare da noi in Puglia, e precisamente nel Golfo di Manfredonia, la produzione, che ormai è iniziata da una sperimentazione che è iniziata da un anno, di un'ostrica ottenuta da seme francese. Quindi è un allevamento di ostriche prettamente quindi italiano, che comunque sta incominciando a dare i loro primi frutti. È chiaro che si unisce la qualità del seme francese con le nostre acque, il nostro Adriatico, del Golfo ai piedi del Gargano, quindi Davide, se sicuramente hai avuto modo di visitare quei posti, si parla di acqua pulitissima, di acqua di uno splendore eccezionale. Guarda Antonio, io ho cercato disperatamente di mettermi in contatto con questi allevatori di ostriche, e diciamo che per 3 giorni li abbiamo cercati, ma senza purtroppo avere risposta telefonica, li cercavamo al telefono. Avremmo voluto volentieri raccontare questa esperienza italiana, perché sembra che stia avendo un grande successo. Quindi io ti ringrazio di averlo fatto tu direttamente dalla provincia di Bari, che tu abbia fatto questa segnalazione, perché credo che, appunto, visto cosa succederà in Francia, sia molto interessante cosa sta succedendo nella vostra zona. Ti ringrazio Antonio, grazie tante della segnalazione. Ebbene, allora continuiamo. Abbiamo con noi un grande ristoratore mantovano, Romano Tamani dell'ambasciata di Quistello. Buongiorno Romano. Buongiorno anche perché oggi... Caro Romano, mi sembra che il telefono non funzioni. Bene, ti ricercheremo. Sentiamo Claudio da Carrara. Buongiorno Claudio. Buongiorno. Prego. Niente, io volevo far sapere a tutti che sto andando a festeggiare il San Valentino con la mia signora, partendo da Carrara e sto andando giù nella Romagna, che è un posto che mi piace come tradizione, quasi tutti i San Valentini e i giorni per me importanti vado in questo posto, dove si può mangiare veramente il pesce crudo, che anche dalle nostre parti, essendo un posto di mare, si può mangiare, perché i vari ristoranti tipo Lorenzo e Tre Stelle, diciamo, però come stiamo bene da Maurizio, che ci fa stare a casa nostra, al ristorante Azzurra lì a Riccione, noi non stiamo bene da nessun'altra parte. Guarda, è un caso che io fra poco abbia proprio in linea Maurizio Signorini, che ci parlerà di ostriche. Grazie Claudio da Carrara, grazie. Torno a Meldini. Tu appunto, ritorniamo a Omero Rompini. Omero Rompini, questo personaggio che era un medico catanese, no? Sì. Secondo te, come gli è venuta questa idea di fare i menù? Perché voglio dire ai nostri radioascoltatori, questo libro, La Cucina d'Amore, basa tutto sulla ricerca di menù a seconda dei colori dei capelli delle sue invitate. Ma come gli sarà venuta questa idea? Beh, innanzitutto dobbiamo dar credito a quello che dice lui. Insomma, noi non sappiamo in realtà niente di Omero Rompini. Insomma, sono state fatte delle ricerche a Catania e non è venuta fuori nessuna notizia. Siamo nel 1926, perché è nel 1926 che viene appunto pubblicata La Cucina dell'Amore. Se dobbiamo dar retta a quello che dice lui, ha passato da più di 5 anni il mezzo secolo, cioè un 55enne, che naturalmente vanta il proprio titolo accademico di dottore, quindi si tratta di un intellettuale della cucina, pubblica questo in un periodo molto preciso, che è il periodo appunto dei tabarèn, è il periodo, siamo nei cosiddetti anni ruggenti, anche se nel 1926 stiamo un po' in discesa, ecco, relativamente a quel tipo di cultura, alla cultura dei tabarèn, dei gabinetti riservati, e appunto è una cucina per signori di mezza età, anzi per signori un po' attempati questa, cioè diciamo che era una sorta di cucina, di un Viagra, però di un Viagra non banale, quindi anche perché c'erano anche allora rimedi forti da questo punto di vista, come la cantaride, anche se estremamente pericolosi. In questo caso si tratta però, cioè, di tutto un rituale, sia nei cibi che appunto negli arredi, nei profumi e tutto quanto che accompagna questi che vengono, insomma, c'è la cultura dei riti d'amore, siamo altri tempi, ecco. Bene, grazie Piero Meldini, ti ringrazio del tuo intervento. Torniamo a Romano Tamani, che abbiamo ripescato di nuovo. Buongiorno Romano, io volevo chiederti, ma stasera ci sarà San Valentino nel tuo ristorante, immagino? Sì, non ho la cucinetta Baren, che era quel per i signori attempati. Perché attempati? Perché gli attempati avevano di duro il portafoglio, con i profumi, i balocchi, con le vie. Io la cucina afrodisia, come i bigoli, con le sardelle che portano la signora all'aspetto dell'amore, portano io la beccaccia, l'uccello che penetra la terra, quindi questi sono gusti, sono ricordi, anche la parola porta al sesso, porta al togliere la mutanda, stracciarla e penetrarla, perché la beccaccia per l'uccello cosa fa? Becca, va a penetrare la terra, quindi poi il bigolo com'è il bigolo? Il bigolo è afrodisiaco, il bigolo è meraviglioso, il bigolo è un atto d'amore. E quando l'amoroso si natala col moroso, vede e si eccita. Bene, grazie Romano, mi sa che i tuoi ospiti questa sera si divertiranno davvero. Grazie Romano Tamani dell'ambasciata di Quistello. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di cucina afrodisiaca, cucina d'amore, a parlare di ostriche. Sentiamo un radioascoltatore, Roberto Dall'Aquila. Buongiorno Roberto. Buongiorno. Niente, le volevo raccontare la mia esperienza con poi la mia futura moglie. Prego. Il problema è che mia moglie non mangia formaggi, quindi mi dovevo inventare un qualcosa e ho fatto della pasta con dei peperoni saltati in padella. Poi ho fatto fare un purè di patate che ho saltato sempre in padella con degli odori, messo sulla pasta i peperoni e sopra ho messo del salame nostro aquilano fatto, diciamo, seccare un po' nella padella aderente, li ho messo sopra. Lì ha assaggiato un piatto completamente nuovo, in quanto a casa sua si mangiavano i soliti piatti che si fanno generalmente in casa. Quindi Roberto, lei dice la novità, l'innovazione, cioè si è trovata sorpresa di fronte a un qualcosa di nuovo. Perché che l'ha colpita. Ha mangiato, diciamo, non so che posso dire, pasta e patate, lenticchie, pasta con la salsiccia. Quindi si è trovato questo bel piatto fatto, diciamo, anche curato i particolari. Fatto con amore, insomma. Ecco, bravo, sono appassionato di cucina, purtroppo, per va bene. I miei anzi, mi fai musicista, però insomma, poi nella vita farò il cuoco. Lei voleva fare il cuoco. Bene, tra l'altro c'è un SMS di Barbara da Torino che dice: non esistono cibi afrodisiaci, il vero ingrediente afrodisiaco è l'amore con la quale si cucina e lo si offre. Addirittura abbiamo un radioascoltatore che manda un altro messaggio, dice: ciao Davide, se vengo io scioperi a San Valentino, ti racconto una delle cene ugualmente romantiche. Mi racconta così tutta una serie di piatti. Ricordo comunque il numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Bene, abbiamo con noi Maurizio Signorini di Azzurra di Riccione. Buongiorno. E abbiamo sentito da un radioascoltatore in viaggio che sta venendo a festeggiare San Valentino nel tuo ristorante, ma io a te voglio chiedere questo in particolare. Abbiamo avuto una telefonata da Manfredonia che ci segnalava di ostriche italiane appunto nel golfo di Manfredonia, e visto anche così il disastro che arriverà dalla Francia, ma a te voglio chiedere: esistono ancora queste ostriche naturali scoperti anni fa a Cattolica? Sì, queste ostriche esistono ancora, e sono quindi ostriche che vengono, diciamo, commercializzate a Cattolica, le chiamiamo le cosiddette ostriche dell'Adriatico, e in occasione del San Valentino abbiamo pensato di offrire queste ostriche ai nostri clienti questa sera, abbinate a una mousse di alghe. Ecco, volevo chiederti che caratteristiche hanno queste ostriche di Cattolica? Ma queste ostriche, diciamo, sono state scoperte negli ultimi anni e quindi, diciamo, sono riusciti a commercializzarle solo per i locali qui della zona, diciamo, non c'è una produzione elevata. E come sentore, diciamo, un po' le fin de clair, e hanno questo sentore di salato, diciamo, e di lieve nocciola. Senti una cosa, ma rispettano la R anche queste oppure no? Ma queste qui, secondo me, il periodo migliore è questo qua, quando le acque sono fredde, perché poi il mare Adriatico, essendo un mare non di profondità, e quindi io sono un po' contrario che durante il periodo primaverile o estivo queste ostriche, secondo me, non riescono a raggiungere il valore massimo. Il valore massimo, secondo me, è in questo periodo dell'anno dove le acque sono fredde, quindi bene. Gennaio. Rimani con noi. Volevo, per quanto riguarda le ostriche, un piatto delle ostriche, c'è un radioascoltatore di Bruno da Vicenza che mi segnala l'ostrica sulla spuma di patata calda dell'antico Folle d'Or di Pavia di Udine. Bene, devo dire che io quest'anno ho premiato con la guida dei ristoranti del Sole 24 Ore proprio questa giovane chef che si chiama Antonia Gluckman, che con questo piatto davvero davvero straordinario. Bene, abbiamo molte segnalazioni di diciamo ricette di menù d'amore di molti radioascoltatori, non posso leggerli tutti, ma ora volevo fare così una deviazione tornando a un libro particolare di Alessandra De Leonardis, Morsi d'amore. Buongiorno Alessandra. Buongiorno Davide, viva l'amore! Ecco, e tutti hanno così titolato i loro libri Ricette d'amore o d'altro. Morsi d'amore, perché morsi d'amore? Morsi d'amore perché un morso è come un bacio. Quindi il cibo va morso. Quindi tu dici il cibo va preso a morsi, giustamente, quindi va aggredito, è questo che vuoi ogni significa? Boccone un bacio? No, non aggredito. Un morso non è un'aggressione, un morso è una conquista. Ecco, in questo libro tu segnali tutta una serie, ci segnali allora una ricetta particolare appunto che va in questa direzione? Sì, non c'è una ricetta particolare secondo me, nella mia esperienza, io in questo libro ho raccontato la mia esperienza, la ricetta particolare è quella nella quale noi riusciamo a entrare, quella che prepariamo con amore, quella che mangiamo con amore e quella che offriamo con amore soprattutto. Quindi dai ragione a Barbara da Torino che ha scritto... Do assolutamente ragione a Barbara, sì, è la chiave di tutto quello. Ma secondo te... L'amore è la chiave. Secondo te ci sono uomini che cucinano con amore? Ci sono uomini che cucinano con amore, sì. Ah, quindi non è solamente una preclusione, diciamo, femminile quella di cucinare con amore. Quindi si può prendere per la gola anche una donna attraverso, diciamo, un menù preparato dagli uomini, a casa magari. Certamente. L'amore passa attraverso le mani, entra nel cibo che si sta preparando e quindi noi lo offriamo, ti amiamo e gli offriamo il nostro amore. Ecco, mi meraviglia che tra i tanti sms, i tanti interventi che sono arrivati, nessuno abbia segnalato la polenta. Perché la polenta? Poi ne parleremo dopo con un medico di questo, perché sembra che la polenta abbia dei poteri molto particolari quando si parla, appunto, si può credere o meno che un cibo sia afrodisiaco o meno, ma sembra veramente che la polenta abbia appunto queste peculiarità. Ricordo il numero verde 800 24 00 24. Torno a Signorini, torno a Maurizio Signorini. Maurizio, quanto costano, cioè, diciamo, 12 ostriche questa sera, diciamo, ai tavoli? Ecco, se uno prende solamente 12 ostriche e un bicchiere di champagne. Sì, noi abbiamo una selezione di ostriche, sto parlando sempre di quelle di Cattolica? Sì, no, no, beh, noi diciamo... Noi abbiamo una carta delle ostriche, sì, che spaziano dalle 4 alle 8 euro. Quindi abbiamo la Bretagna, le Belon de Belon 4-0. Qui abbiamo le 3-0 e poi abbiamo adesso le ostriche della Tasgagn, che è un'isola in Russia, dove un'isola vergine dove vengono pescate queste ostriche. Addirittura ora anche la Russia. Cioè... Sì, abbiamo una carta di ostriche, di 15 tipi di ostriche, quindi diciamo varie dai 4 euro agli 8 euro. Quindi non solo, ora ci sono clienti russi molto denarosi, ma addirittura arrivano... Questa è un'isola di fronte alla Russia, diciamo un'isola vergine dove... I zar mandano a pescare queste ostriche per il loro fabbisogno. E quindi arrivano in Italia ora, si possono mangiare in Italia? Arrivano in Italia, esatto. Beh, tra i tanti messaggi che arrivano ce n'è uno anche molto significativo. Il mio ragazzo oggi non mi ha neanche fatto gli auguri. Ho fatto bene a arrabbiarmi con lui? Alessandra De Leonardis, lei cosa ne pensa? Ha fatto bene ad arrabbiarsi con lui. Perché... L'amore va coltivato, non si può dimenticare di fare gli auguri. Quindi oggi non solo portare a cena ma anche fare gli auguri, mi sembra assolutamente giusto. Un altro radioascoltatore che scrive: Giacomo Casanova mangiava ostriche e formaggio francese come cibi afrodisiaci. Paolo da Pordenone. Caro Paolo, in realtà si è scoperto attraverso studi anche dell'Università di Oxford che l'afrodisiaco di Casanova non erano le ostriche, era cioccolata in tazza, addirittura beveva un numero spropositato di cioccolati in tazza e si rifaceva a un modello messicano di Montezuma, il quale sembra che ogni giorno bevesse 40 tazze di cioccolata al giorno per soddisfare il proprio harem, e addirittura c'era una peculiarità che non usava mai la stessa tazza per più di due cioccolate. Chissà, questo è un mistero che rimane assolutamente. Signorini, ma un ultimo punto, oltre le ostriche, cos'è che tira in questo momento, questa sera? C'è un piatto in particolare? Ma noi abbiamo investito molto sulle ostriche questa sera. Quindi ostriche e champagne, insomma. No, champagne, abbiamo trovato un direi buon brut italiano, ma sì, non al nord, al sud. Non so se si può dare il nome, quindi... Beh, lasciamolo così, lasciamolo in sospeso. Quindi stasera, incredibile ma vero, si possono mangiare ostriche italiane... Siciliano. Quindi ostriche italiane e bollicine italiane. Bene, questo secondo siciliano, me siciliano, siciliano. Beh, siamo sempre in Italia, siamo sempre bollicine italiane. Ecco, è arrivato subito Missoltino con polenta e lei è conquistata. Mauro da Milano, ecco, c'è qualcuno sicuramente che appunto offre questo. Volevo chiedere un'ultima cosa alla De Leonardis. Alessandra, ma i cibi pesanti, i piatti pesanti possono servire comunque oppure è meglio lasciarli parte? Ad esempio il fritto. Io adoro il fritto. Il fritto basta saperlo cucinare, Davide, tu lo sai meglio di me, e non è assolutamente un cibo pesante, anzi, ti dà la possibilità di mangiare con le mani, che è una cosa assolutamente afrodisiaca. Quindi possono andare anche le polpette fritte, il pesce possono fritto? Possono andare le polpette fritte, il pesce fritto, fantastico il pesce fritto. Bene, quindi sì, bisogna lasciare diciamo uno spazio a tutto. Il gastronauta. Eccoci qua a riparlare di ostriche, a parlare di cucina d'amore, di cucina afrodisiaca. Sentiamo un radioascoltatore, Vincenzo da Trento. Buongiorno Vincenzo. Ah, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Io volevo dire appunto un'esperienza, diciamo mia personale, per quanto riguarda i cibi afrodisiaci. Parlo per quanto riguarda appunto... Purtroppo dobbiamo richiamare questo radioascoltatore perché veramente così la ricezione è veramente così pessima. Bene, Vincenzo, speriamo di ricollegarci con lei con la sua esperienza, ma intanto continuiamo, ricordo numero verde 800 24 0024 per invece SMS 349 238 6666. Bene, abbiamo parlato molto di afrodisiaco, abbiamo parlato molto di vari cibi. Allora, abbiamo con noi la dottoressa Gloria Costani, medico neurologa, la quale ha curato appunto la prefazione del libro di Lino Turini. Buongiorno Gloria. Buongiorno. Allora Gloria, esistono cibi afrodisiaci? Esistono, direi globalmente di sì, anche se il discorso dal punto di vista medico-neurologico diventa un po' più complesso, perché sicuramente non si tratta soltanto di sostanze che stabiliscono il livello di afrodisiaco, però diciamo che globalmente è tutto il sistema nervoso centrale che reagisce a una serie di condizioni positive predisposte dal cibo, e quindi alla fin fine anche il sistema sessuale risponde in maniera ottimale. Ecco, ti leggo un SMS. Sì. Se si parla di polenta, segnalo la polenteria di Clusone con menù completo a base di polenta. Su San Valentino l'amore va morso ogni giorno. Vabbè, a parte la battuta finale. Ecco, la polenta. La polenta, il discorso della polenta è un discorso un po' particolare, perché la polenta dovrebbe essere una sostanza, un alimento che contiene un basso livello di triptofano, che è un aminoacido essenziale, il quale dovrebbe avere un'azione inibente a livello sessuale. Quindi mangiare la polenta, ma anche altri alimenti che contengono un basso livello di triptofano, dovrebbe poter predisporre a un'attività sessuale più gagliarda. Anche se gli studi a questo proposito erano un po' divertenti, perché sono stati studiati dei topolini in laboratorio ai quali è stata sottoposta una dieta per alcune settimane solo a base di polenta. In effetti l'attività sessuale di questi topolini era aumentata, però era poco selettiva. Se prima era diretta nei confronti delle topoline, poi era diretta nei confronti di tutti. E quindi questo... Ecco. Bene, rimani con noi. Abbiamo con noi un ristoratore molto famoso a Roma, il patron della Rosetta, Massimo Riccioli. Buongiorno Massimo. Buongiorno Davide. Allora, tu che sei un grande esperto di pesce, un grande esperto anche di ostriche, conosci queste ostriche italiane di Manfredonia, del Golfo di Manfredonia? Sì, le conosco le ostriche italiane, anche se noi ci rivolgiamo a un'ostrica francese, insomma, bretone, normanna, dove c'è una tradizione insomma millenaria, quasi anche i romani andavano lì a approvvigionarsi. Quindi diciamo che non sei preoccupato di questo pericolo incombente che fra due anni in Francia ci sarà un disastro sulle ostriche? Io sono molto preoccupato, e spero che sia un'esagerazione, un allarmismo eccessivo, però sono preoccupatissimo, cioè, sia per il mio discorso, ma anche per un discorso ambientale che riguarda tutti, insomma, ecco, la mancanza delle ossere che è come uccidere un mito, ucciderci anche a noi da soli. Certo, rimani con noi, rimani con noi, abbiamo ripescato Vincenzo dalla provincia di Trento. Vincenzo? Pronto? Sì, sì, può parlare ora, grazie. Ecco, io sono della, abito qui a Trento, però parlo per un'esperienza mia del mio paese giù in Sicilia, Selinunte, sì, nella provincia di Trapani, dove c'è un ristorante gestito da mio fratello, l'Olimpo, no? Sì. L'Olimpo a Marinella di Selinunte, che noi praticamente oggi come menù abbiamo molto, cioè prepariamo del salmone affumicato, del come menù appunto di San Valentino, dello spada affumicato e del caviale o uova di lombo. Quindi tutto sul fumé, insomma, lei da Trento fa da megafono suo fratello Selinunte, mi sembra di capire. Esatto, perché io sono qui adesso momentaneamente. Ho capito. Qui a Trento. Ma lei dove va a mangiare questa sera a Trento, visto che non può essere Selinunte? Questa sera vado con la mia signora in un ristorantino qui in montagna e forse assaggerò anche la polenta, che dicono che da ste parti è anche afrodisiaca, con un merlot. Va bene, grazie a Vincenzo della provincia di Trento. Allora io vorrei tornare a Gloria Costani, vorrei chiederle di nuovo se diciamo ci sono dei cibi invece che precludono l'amore, se c'è un qualcosa che è meglio evitare. Ma direi di no, nel senso che dei veri cibi che bisogna evitare, no, bisognerebbe evitare gli eccessi. Allora, l'eccesso sicuramente di sostanze alcoliche non aiuta assolutamente da nessun punto di vista l'attività sessuale, così come anche gli eccitanti, tutte le sostanze che contengono degli eccitanti, delle xantine, tipo la teina, la caffeina, se possono dare un effetto positivo all'inizio, poi sicuramente possono avere un effetto finale, però per il resto invece non è che ci siano dei veri e propri cibi che non bisogna consumare. Bene, quindi allora si può essere liberi questa sera. Sentiamo Marta da Piacenza, una radioascoltatrice. Buongiorno Marta. Buongiorno, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Vi ascolto tutti i sabati, mi ha fatto scoprire la vostra trasmissione mio marito, che ha una buona forchetta, e a me piace molto cucinare, per cui mi è venuto in mente oggi che cibo e San Valentino, ultimamente ho letto un libro di Enzo Bianchi, Il pane di ieri, grandissimo libro, un elogio del cibo, e dice che insomma è qualcosa di cui si deve averne cura, perché la tavola in fondo è un luogo d'incontro, di festa, e dice proprio che il cibo è come la sessualità, ecco, mi è venuto in mente, perché siccome oggi è San Valentino, e dice appunto Enzo Bianchi che il cibo è o è parlato, ecco come dice lui, o aggressività, o è contemplato, o è animalesco. E ecco, questo cibo che è cucinato e condiviso come un luogo di incontro e di amicizia. Bene, la ringrazio Marta di aver citato anche un libro straordinario. E un sms: la cosa più afrodisiaca è una persona che si ama, per il resto va bene anche un panino al lampredotto o pane noci, altro che ostriche. Simone da Pistoia, beh, sul panino al lampredotto sono completamente d'accordo, caro Simone da Pistoia. Torniamo a Massimo. Massimo, c'è ancora molto consumo, molta richiesta di ostriche, a parte San Valentino? Sì, molto, anche in crescita, credo. Insomma, noi proponiamo una vasta selezione, dalle Terre Blanche, Speciale, Fin de Clair, Belon di vario stile, varie pezzature. E la gente apprezza molto, anche perché è un cibo fantastico, leggero, proteico, non fa male al colesterolo, e poi c'ha un gusto che è inebriante. Insomma, mangiare il mare comporta tutta una serie di viaggi interiori, mentali, psicologici, pensare all'abbinamento ostriche e champagne, insomma, solo a nominarlo è mitico, insomma, e la gente apprezza, gradisce, giustamente, io trovo che sia assolutamente esaltante, quindi bene. Il consumo ostriche deve continuare, deve essere sempre nell'ambito del rispetto della natura, eccetera, chiaramente. Bene, grazie Massimo. Massimo ovviamente ha dato questo abbinamento ostriche e champagne. Io sono anni che sto facendo una campagna che è lo scambio delle coppie. assaggiate le ostriche con l'ambrusco grappa rossa e la mortadella con lo champagne. Credo che sia veramente un qualcosa di gustoso, di afrodisiaco e anche, così come posso dire, di provocatorio, ma provare per credere. Io ringrazio anche Gloria Costani della sua partecipazione, grazie. Ma mi arriva un SMS un po' strano, non so se è uno scherzo o altro, non conosco le palleniere di serpente, di cui mi segnala un radioascoltatore, dice che è un cibo afrodisiaco cinese. Bene, la prendiamo, non so se come scherzo o come altro, insomma. Quindi ancora mi è arrivato un altro SMS che dice: ho conquistato la mia milanese con arancini e zuppa di pesce, ora siamo sposati e continuo a cucinare con amore, anche lei sta imparando per amore. Daniele. E adesso continua il riposo del guerriero con Stefano Gallarini.